Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e quindi i temi di questa giornata economico-finanziaria, come già vi hanno raccontato i nostri GR, la diretta anche di questa mattina dall'Auditorium della Musica di Roma. Partiremo con i passaggi principali dell'intervento del Presidente di Confindustria Marcegaglia nell'Assemblea annuale di Confindustria. Poi anche varie reazioni, c'è stato anche l'intervento del ministro Scajola e poi del presidente del Consiglio Berlusconi, le reazioni dei sindacati ma anche dell'opposizione e di altri esponenti presenti oggi all'Assemblea annuale di Confindustria. Diversi temi toccati, quelli più forti, come già ricordavano i nostri titoli, riguardano la crisi che è tutt'altro passata e la situazione resta difficile, anche se a detta della Presidente di Confindustria si vede qualche segnale incoraggiante. Dall'altro, la necessità di fare le riforme proprio perché si è in un periodo di crisi, quindi per liberare risorse economiche, riforma delle pensioni ma non solo, e l'invito al Presidente del Consiglio Berlusconi a utilizzare l'ampio consenso di cui dispone a livello elettorale proprio per andare avanti sulla strada delle riforme. Parleremo poi nella seconda ora di Fiat Opel, non perché vi siano novità verificabili, diciamo così. Continua a esserci sulla stampa tedesca una ridda di voci e ipotesi, 18.000 esuberi presenti nel piano Fiat, non si capisce come queste fonti siano verificate e verificabili, ed è anche questo un aspetto interessante. In Germania si è in piena campagna elettorale, per cui lo spazio e le fonti sono spesso o di carattere sindacale, quindi parte in causa, oppure di carattere politico, e anche lì nella sfida tra cristiano democratici e socialdemocratici in Germania. Per quello che riguarda Fiat non vi sono novità, avete letto oggi sui giornali, le offerte sono tre, come ampiamente atteso. La scadenza ultima è il 1 giugno, nel senso che General Motors ha un obbligo nei confronti dell'amministrazione Obama di presentare un piano se vuole ottenere altri aiuti entro il 1 giugno, e quindi presumibilmente, visto che General Motors Europe controlla Opel, quella sarà tecnicamente anche la scadenza per la vicenda Opel. È in mano infatti a General Motors, non al governo tedesco, la gestione operativa della vicenda. Le borse stanno peggiorando visibilmente, soprattutto il calo adesso si fa consistente, meno 3% a Francoforte, meno 2,80 a Parigi, meno 3,1 a Londra, ma il comune mezzo gaudio non si può dire in questi casi, ma Milano è in linea, meno 3% sul MIBTEL, meno 3,35% sull'S&P MIB, che a questo punto torna sotto i 20.000 punti per azione, 19.800. Vendite su tutti i settori, e anche qui bisogna capire perché, cercheremo di farlo durante il collegamento con la borsa. Su tutti i settori non si salva nulla oggi sul mercato, l'unico titolo invariato, anzi gli unici due titoli che perdono pochissimo sono Snam Rete Gas e Italcementi, sostanzialmente invariati. È molto male invece ST Microelectronics, che perde il 7% quasi, scende sotto i 5 euro per azione, 4,90 euro. Finmeccanica perde un altro 5% e arriva alla soglia dei 10 euro per azione. Bulgari perde il 4,90, Alleanza il 4,70, Unicredito il 4,60, Luxottica perde il 4,5, Generali il 4,2, Telecom il 3,80, Prismian perde il 3,6, Ubibanca il 3,5, come Fondiaria il 3,4, lo perde Intesa San Paolo il 3%. È il calo della Popolare di Milano, di Lottomatica, di Atlantia, di Tenaris e di Eni. L'euro in rafforzamento, sempre vicino a quota 1,38, siamo a 1,37,6 per la precisione, nei confronti del dollaro. Rapidamente allora le notizie in breve. stabile anche il petrolio, ma sempre su livelli alti. Siamo ormai almeno a 15 dollari, 17 dollari in più rispetto al barile, rispetto a un mese e mezzo fa, perché dopo aver viaggiato lungo tutto l'inizio dell'anno sui 35, 38, 40, 42 dollari al barile, adesso siamo stabilmente a 60 dollari al barile. 60 dollari, una cifra abbastanza alta, anche se è chiaro che visto che l'anno scorso eravamo arrivati a 140 sembrerebbe poco, ma 60 è un valore molto alto nel prezzo del petrolio, anche perché tutta questa ripresa su base mondiale non si vede, tutta questa domanda di energia non si vede. Sembra essere più l'effetto euro a pesare. L'euro infatti oggi a inizio mattinata è salito ai massimi dal gennaio a 1,38,3 euro. Dicevamo della vicenda Opel Fiat, ne parleremo nella seconda ora, però insomma oggi diverse voci di stampa. Il ministro della Turingia, ministro dell'economia della Turingia, uno dei land tedeschi, ha detto che una delle tre offerte presentate fornisce maggiori garanzie sul piano dell'occupazione, le altre due offerte sono vicine tra di loro, ma due sono vicine, una è più vantaggiosa sulla tutela dei posti di lavoro. E poi la Bild, il tabloid tedesco, che nella sua edizione online dice: il piano della Fiat prevederebbe il maggior numero di esuberi in Europa e il livello più alto di garanzie pubbliche sul debito rispetto alle proposte degli altri due concorrenti. Secondo la Bild, il piano Fiat taglierebbe 18.000 posti di lavoro contro i 10.000 previsti dagli altri due potenziali investitori e chiederebbe garanzie per circa 7 miliardi di euro contro i 5 miliardi previsti da Magna e Ripplewood, che sono le altre due offerte. E anche il settimanale Der Spiegel dice che General Motors preferirebbe come partner il fornitore austro-canadese Magna per la Opel. La Fiat si troverebbe al terzo posto, quindi ultima, secondo Handelsblatt. Anche secondo Handelsblatt, che è il quotidiano economico finanziario tedesco, Magna, che è un fornitore di componentistica auto, sarebbe il favorito nella corsa all'acquisizione della Opel, sempre per via delle preferenze di General Motors. E le faremo sentire nella seconda parte del programma, ma oggi molte dichiarazioni sono arrivate anche a margine dell'assemblea di Confindustria sulla vicenda Opel. Il presidente della Fiat Montezemolo ha detto di impianti, parleremo a bocce ferme, ora non se ne può parlare, bisogna vedere che cosa succede, non vi saranno comunque tempi lunghi nella decisione su Opel. Il segretario generale della CGIL Epifani ha detto: una cosa è chiara, visto quando è stato fatto un incontro prima, l'incontro che si farà dopo dovrà ripartire dalla difesa dei posti di lavoro, non faremo sconti a nessuno. È tornato il gufo Greenspan, quell'ex mitico, storico presidente della Federal Reserve americana, che secondo alcuni economisti è stato una delle cause, o perlomeno non ha saputo evitare il formarsi di una bolla di liquidità, di una bolla sul credito, che poi ha generato prestiti dati senza criterio, appunto la crisi dei mutui subprime e i prodotti tossici. Assieme, dicevo, Alan Greenspan oggi è tornato a fare il gufo. Perché? Ma non ve lo do l'animale, non vi preoccupate. Perché ha detto, contrariamente alle iniezioni di fiducia che sono arrivate ieri da Geithner, che è il segretario del Tesoro americano, e dall'amministrazione Obama, ha detto: attenzione, le banche americane hanno ancora bisogno di una grande quantità di capitali e serve molta più liquidità alle banche commerciali americane di quanto non sia emerso dagli stress test condotti dalla banca centrale. E poco fa il ministro Tremonti è tornato su un aspetto che non è la prima volta che cita, però a ottobre del 2008 abbiamo sfiorato la catastrofe, abbiamo rischiato gli effetti disastrosi di una guerra senza avere combattuto e il peggio è stato evitato grazie all'intervento del governo. Ottobre 2008, l'ottobre nero, è quello della Lehman Brothers, è quello in cui si è temuto, adesso lo si può anche dire in maniera più senza creare allarmismi, si è temuto proprio che non reggesse il sistema bancario e finanziario. Sappiamo tutti che l'ultima cosa che si vuole vedere è la corsa agli sportelli. Catastrofe evitata, anzi sfiorata, secondo Tremonti, ed evitata grazie all'intervento dei governi che hanno messo in sicurezza, nel caso italiano, i conti pubblici per non far mancare l'aria. E poi Tremonti ha chiesto che le banche facciano il loro dovere nell'aiutare le imprese. Questo ci permette di entrare nel primo tema, la relazione della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia all'Assemblea Annuale degli Industriali, un'assemblea che si è aperta ricordando le vittime del terremoto. Nella prima parte, una relazione lunga circa un'ora, 38 cartelle, 38 pagine, nella prima parte subito il riferimento all'anno che è stato, alla crisi fortissima, senza precedenti negli ultimi decenni, che ha colpito l'economia mondiale, prima finanziaria e poi economica, ma anche un giudizio sulla situazione attuale. I danni prodotti da questa crisi, noi lo sappiamo bene, sono enormi. Quest'anno l'attività economica mondiale scenderà di ben l'1,3%, il dato peggiore dal dopoguerra ad oggi. E addirittura in alcuni paesi industrializzati il calo potrà essere di oltre il 6%. E produzione industriale e commercio mondiali sono caduti negli ultimi 9 mesi di questa crisi di più di quanto è successo nello stesso periodo del crack del 1929. Quindi la crisi è forte, lo sappiamo bene. Però va detta una cosa importante. I governi e le banche centrali hanno risposto con determinazione, dimostrando di aver imparato la lezione della Grande Depressione, dove invece le politiche economiche non reagirono. Qualche segno qua e là di ritorno alla fiducia nei mercati finanziari e nell'economia reale si intravede. Quindi forse si può sperare entro la fine di quest'anno di vedere qualche ulteriore segnale di miglioramento. Ma non illudiamoci, il recupero sarà difficile, sarà doloroso e richiederà tempo. E dunque il compito della politica economica non è affatto esaurito, come qualcuno può pensare, e il sostegno alla domanda aggregata dovrà continuare fino a quando i consumi e la produzione privata riusciranno a ritrovare il percorso della crescita. Quindi attenzione, dice la Presidente Confindustria, la situazione resta difficile. Poi Emma Marcegaglia ha criticato chi per via di questa crisi rimette in discussione il capitalismo. Il capitalismo ha permesso a centinaia di migliaia di persone, il capitalismo con le regole chiaramente, di uscire dalla povertà, e a chi vorrebbe imbrigliare il mercato con nazionalizzazioni, statalizzazioni, con il ritorno dello Stato, della politica nell'economia. Servono nuove regole, ma non una nuova Bretton Woods, ha detto. Non serve una nuova autorità finanziaria mondiale, ha detto Emma Marcegaglia. Per quello che riguarda il 2009, il PIL italiano andrà ben oltre il 4% di calo, e quindi le stime iniziano a peggiorare, visto che abbiamo fatto meno 1 nel 2008, le previsioni sono di un meno 4,4, ma la frase ben oltre non lascia intendere, diciamo, non lascia presagire elementi positivi. E poi ancora, sempre la Presidente di Confindustria ha detto attenzione, senza riforme c'è il rischio che venga meno la coesione sociale. Da lì l'invito al Presidente del Consiglio Berlusconi, che era in prima fila, affinché sfrutti l'ampio consenso di cui gode per le riforme strutturali di cui questo Paese ha bisogno. Il governo gode di un ampio consenso ottenuto dalle urne, che si è consolidato nell'opinione pubblica e che gli conferisce un forte mandato. E allora io mi rivolgo a lei, Presidente Berlusconi. Il consenso che lei ha saputo conquistarsi è un patrimonio politico straordinario. Allora, lo metta a frutto, lo usi per fare le riforme, ma lo faccia adesso, perché questo è il momento delle riforme. Lo faccia adesso, Presidente Berlusconi. Noi apprezziamo le azioni che sono state avviate, ma occorrono maggiori incisività e rapidità e verifica dei risultati concreti, perché la crisi richiede questo: incisività, velocità e verifica dei risultati concreti. E poi sempre la Marcegaglia ha aggiunto: senza queste riforme, visto il passo corto che ha l'economia italiana e che l'economia italiana ha mostrato negli ultimi 10 anni, tornare su livelli produttivi pre-crisi, prima della crisi del 2008, significherebbe aspettare fino al 2013. Quali sono queste riforme? Soprattutto le pensioni, ma non solo. Ma le pensioni sono sicuramente al primo posto nell'elenco fatto oggi dalla Presidente Confindustria. Noi siamo il paese, lo sappiamo bene, lo ripetiamo sempre, con la spesa sociale più squilibrata a favore delle pensioni, per le quali spendiamo quasi il 16% del PIL contro il 9,5% dei paesi avanzati. Allora, l'unica via per difendere le prestazioni previdenziali e per reperire le risorse per crescere è ritardare il ritiro dal lavoro. Senza questo e senza maggiore crescita, anche le pensioni più basse rischieranno di non essere pagate. Noi siamo consapevoli che questo è un discorso molto complesso, che incide anche sulla nostra vita di imprenditori e che deve comportare radicali cambiamenti anche per noi, in primo luogo nei modi di lavorare, nel disegno dei profili retributivi e di carriera. Queste sono questioni importanti e delicate su cui aprire tutti insieme una seria riflessione, avendo a cuore però soprattutto il futuro e le speranze dei nostri giovani, che spesso sono coloro che sono dimenticati nel dibattito politico-economico del Paese. E la riflessione deve essere senza pregiudizi. La maggiore flessibilità introdotta negli ultimi anni nel mercato del lavoro ha aumentato l'occupazione proprio a vantaggio delle fasce più deboli. Allora io penso che noi dobbiamo proseguire per dare maggiore opportunità ai giovani, alle donne e al mezzogiorno. Lavorare meglio per lavorare di più, tutti insieme, imprese e lavoratori. Questa è la nostra sfida. E poi di nuovo, dico di nuovo perché la Confindustria da tempo insiste su questo tema, di nuovo un appello alle banche perché non tolgano ossigeno alle imprese schiacciate tra la riduzione degli ordinativi e le difficoltà di incasso dei pagamenti. Non venga meno, ha chiesto la Presidente di Confindustria, l'ossigeno bancario. E poi però gli elementi anche dolenti. Da un lato un tema delicatissimo, ne abbiamo parlato più volte, la cifra dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione per aver fornito beni o servizi alla pubblica amministrazione oscilla tra, a seconda delle stime, tra i 30 e i 60 miliardi di euro. E allora la Presidente Confindustria Marcegaglia ha detto: questo è una vergogna, lo scandalo deve finire. I crediti verso la pubblica amministrazione, ne ho parlato quasi allo sfinimento. La montagna di crediti verso la pubblica amministrazione è una patologia insopportabile in questo paese, che viene da lontano, che si è accumulata in tutti questi anni. E i ritardi nei pagamenti, già gravissimi, oggi si sono ulteriormente allungati. Ci hanno spiegato che lo Stato e le sue amministrazioni non possono rimborsare subito tutti i crediti perché questo innalzerebbe il livello dei debiti a livello dei parametri europei. Io resto convinta che questa sia una vergogna nazionale e chiedo perciò quando e come saremo pagati. Questo è necessario. In ogni caso, questo scandalo non può continuare, quindi noi esigiamo per i nuovi crediti il rispetto rigoroso dei termini di pagamento e l'effettiva eliminazione di deroghe contrattuali. E deve inoltre diventare presto operativo il provvedimento per poter scontare in banca o tramite la Cassa Depositi e Prestiti tutti i crediti pregressi sulla base di certificazioni emesse dalle amministrazioni debitrici. Al Liquidity Day voluto dal ministro Tremonti martedì sono stati fatti su questo punto alcuni passi avanti. Dobbiamo continuare. Altro elemento critico, le infrastrutture, perché, e qui è rivolta alla critica soprattutto al governo, nonostante gli annunci dagli stessi documenti ufficiali del governo, non risulta alcun aumento degli investimenti pubblici in infrastrutture nel 2009. E l'altro appello barra critica rivolta al governo riguarda le liberalizzazioni. Ha detto infatti Emma Marcegaglia: sono sparite le timide liberalizzazioni anche dal dibattito politico, occorre riprendere cammino. C'è una parola che nel dibattito della politica economica Italia è sparita: liberalizzazioni. Questa è una grande riforma, è una riforma importante, ma è sparita. Allora è urgente riprendere il cammino interrotto delle liberalizzazioni nei trasporti, nelle comunicazioni, nelle professioni, nell'energia, dove è stato varato con il ministro Scajola, grazie anche a Confindustria, una nuova riforma della borsa elettrica. Ma dobbiamo continuare. Ma soprattutto le liberalizzazioni vanno fatte nelle società pubbliche a livello locale, dove stiamo assistendo all'avanzata impressionante del neostatalismo. Noi lo continuiamo a dire, ma non si blocca questo meccanismo, va avanti. Per le infrastrutture noi apprezziamo lo sforzo che ha fatto il ministro Matteoli volto ad accelerare i cantieri e riprogrammare le risorse disponibili a favore delle opere strategiche e di quelle immediatamente realizzabili. Però, qui lo devo dire, nonostante gli annunci, dagli stessi documenti ufficiali del governo non risulta alcun aumento di investimenti pubblici nel 2009. Allora, per sostenere l'economia in questo momento difficile bisogna che si proceda, si stanzino e si rendano disponibili da subito le risorse necessarie e soprattutto si aprano finalmente i cantieri. Questa è una nostra richiesta importante, perché questo può aiutare la ripresa della domanda. Questi alcuni dei punti principali dell'intervento di Emma Marcegaglia alla relazione della Confindustria. Dicevo, questi passaggi principali dell'intervento di Emma Marcegaglia, che ha anche poi ribadito l'impegno di Confindustria nel contrasto alla criminalità organizzata e l'appoggio dell'Associazione degli Industriali alle associazioni territoriali, a partire da Confindustria Sicilia, che hanno deciso di combattere una lotta dura espellendo chi paga il pizzo dalla Confindustria stessa. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora vediamo le reazioni all'intervento di Emma Marcegaglia. Il ministro Scajola, il ministro delle attività produttive, che come da prassi è intervenuto dopo la presidente di Confindustria, ha ricordato sostanzialmente che l'incubo vero e proprio della crisi economica si è dissolto, il paese ne uscirà più forte, ha detto Scajola, sta dimostrando infatti una solidità profonda, morale, ancor prima che economica, ed uscirà dalla crisi meglio di come ci è entrato. Così il ministro Scajola sul ruolo dell'Italia, del paese. Poi ha ricordato il disegno di legge sul nucleare, ricordando che già dal 2018 dovrebbe essere in funzione la prima centrale nucleare, con alla fine un risparmio del 30% sul costo della luce per le imprese, per arrivare a un 25% di produzione di energia con il metodo nucleare. Dopo il ministro Scajola, l'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi, il quale ha detto di essere stato sempre impegnato ad allontanare la paura, anche perché il fattore psicologico nella crisi è davvero pesante. Io credo di avere fatto bene a cercare di diffondere fiducia durante questo periodo di grave crisi che tutti conosciamo, perché basta che conosciamo i conti delle nostre aziende e nessuno può immaginare che la crisi non sia una crisi pesante, quale non si è mai verificata in passato. Però è certamente importante la componente psicologica. Io sono profondamente convinto che la crisi ha nella componente psicologica un fattore veramente pesante, che può, se incrementata come paura, come catastrofismo, arrivare a rendere più profonda la crisi e più estesa la sua durata. E quindi credo che sia un interesse di tutti noi di cercare di allontanare questa paura. E sono profondamente addolorato quando vedo che i giornali, che le televisioni, che la nostra opposizione continuano invece a cantare la canzone del pessimismo e la canzone del catastrofismo. Questo per quello che riguarda l'elemento psicologico della crisi e poi l'invito, la risposta all'invito che era arrivato dal presidente di Confindustria, usi Berlusconi il suo consenso politico per fare mettere mano alle riforme strutturali del Paese. Emma ci ha invitato ad utilizzare la nostra maggioranza per fare le riforme e io ieri ho avuto modo di dire che sentendomi dentro un rivoluzionario ho sempre ritenuto che le rivoluzioni siano molto più facili che le riforme e in effetti le difficoltà che incontriamo ad operare quotidianamente essendo al governo sono infinite e c'è una burocrazia che si oppone a tutto, abbiamo una difficoltà enorme a far aprire i cantieri, abbiamo stanziato 17 miliardi per le grandi opere ma troppo pochi sono i cantieri che si sono aperti. Io sto facendo il braccio di ferro per la realizzazione dei termovalorizzatori. Abbiamo dovuto schierare l'esercito in Campania per completare la costruzione, per esempio, del termovalorizzatore di Acerra. E poi il Presidente del Consiglio Berlusconi ha invitato le banche a sostenere le imprese, quindi a fare il loro mestiere, a sostenere chi rischia, chi intraprende e chi consuma. Altri elementi, sarebbe opportuno, ha detto Berlusconi, che dal prossimo anno partisse un grande piano per costruire le new town in ogni capoluogo di provincia. E poi il Premier ha anche rivendicato l'orgoglio per il fatto che il governo italiano sia stato il primo a dare il via al salvataggio delle banche. C'è stato anche un elogio dal palco dell'Assemblea di Confindustria da parte del Presidente del Consiglio al Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Ha detto infatti Berlusconi: a torto viene da alcuni giudicato il cattivo della compagnia, ma in realtà è un pezzo di pane costretto a dire no a certe spese perché se i soldi non ci sono non si può fare altrimenti. Le reazioni all'intervento del Presidente di Confindustria Marcegaglia e anche poi le dichiarazioni politiche del Presidente del Consiglio, per esempio sulla magistratura, ve le hanno già raccontate e ve le racconteranno i nostri GR. Noi ci occupiamo sempre solo di economia e di finanza, dicevo, le reazioni politiche, non lo dico a chi ci chiede altre cose, al 349-238-6666. Nella sua relazione, secondo Pierluigi Bersani, la Presidente Confindustria ha cercato di tenere in equilibrio la percezione dei fatti con l'esigenza di non disturbare il manovratore. Marcegaglia ha detto chiaro: non facciamoci illusioni. Ha, diciamo, posto fine al tema, la crisi l'abbiamo alle spalle, perché noi socialmente ce l'abbiamo davanti questa crisi, anche se speriamo appunto di non fare ulteriori scalini, ma il pavimento è bassissimo e avremo effetti sociali rilevanti. E non sono mancate anche puntualmente delle critiche, delle osservazioni condivisibili, cominciare quella che io ho percepito netta, quella sulle liberalizzazioni. Detto questo, nell'insieme questa preoccupazione sempre, diciamo, di non disturbare troppo il manovratore ha consentito al governo di prescindere, glissare e rispondere con i soliti toni diciamo della propaganda. Ecco, questo mi pare corretto dirlo. Poi Berlusconi ci ha messo del suo e credo che ci sia anche un certo sconcerto fra gli imprenditori. Forse questo sconcerto dovrebbe avere qualche espressione in più. Ecco. Così l'esponente, il responsabile economico del PD Pierluigi Bersani, intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta, sempre all'uscita dall'assemblea di Confindustria, ma questa volta il nostro Andrea Viali ha raggiunto il segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani. Vabbè, una relazione come naturale, molto attenta all'impresa, dal presidente degli industriali. Mi sarei aspettato una maggiore attenzione verso la condizione del lavoro, perché questa crisi la pagano soprattutto i cassaintegrati, i precari che perdono il lavoro, coloro che sono costretti a vivere quando va bene con 600-650 euro al mese. E da questo punto di vista mi ha anche molto colpito negativamente il fatto che non abbia richiamato l'esigenza di ridurre il carico fiscale sul reddito da lavoro dipendente. Nel passato questo è avvenuto, oggi manca e secondo me è un segno di disattenzione verso la condizione di reddito dei lavoratori. Ma in realtà è la Marcegaglia che ha sbagliato, perché in una crisi come questa non si fanno accordi separati contro il più grande sindacato italiano. Non si tratta di tornare dove non si può tornare, si tratta di riconoscere l'errore che c'è stato, e questa è la verità. L'ultimo riferimento del leader della CGIL Epifani era al tema del contratto, la riforma del modello contrattuale, quella che è arrivata a inizio gennaio del 2009, di cui abbiamo ampiamente parlato. C'è stato anche un passaggio, un intervento della Presidente di Confindustria che ha detto: abbiamo cercato di convincere la CGIL fino alla fine, siamo, la nostra porta resta aperta. La CGIL infatti non ha firmato la riforma del modello contrattuale. Ancora ascoltiamo Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, al microfono di Vincenzo Miglietta. Chiediamo di lavorare ancora, di andare oltre il contratto che abbiamo costruito, e questo è un fatto positivo, ma di lavorare insieme anche che ci siano meno tasse sui salari e sulle pensioni, in modo tale da far crescere di più, da far crescere di più il prodotto interno lordo. È un prodotto interno lordo davvero giù, proprio perché i consumi sono bassi a causa di stipendi e pensioni troppo bassi, a causa di tasse troppo alte. Su questo dobbiamo lavorare ancora, oltre naturalmente nel darci da fare tutti, a che l'economia si rilanci attraverso la costruzione di un raccordo fortissimo. Oggi bisogna battere il ferro mentre è caldo per incalzare la ripresa, raggiungerla, addirittura anticiparla. Con la dichiarazione al microfono del nostro Vincenzo Miglietta di Raffaele Bonanni, leader della CIS, si chiude questa parte dedicata di Focus Economia oggi, dedicata alla relazione annuale di Confindustria e alle reazioni che ha suscitato. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, parleremo di borsa. Brutta la giornata, piena di realizzi, come si dice in gergo, però le borse non chiudono sui minimi, hanno meno 3% Milano, meno 2,6% Parigi, l'America perde l'1,7%, i cali mezz'ora fa erano anche superiori al 3%. La borsa di oggi, meno 3% quasi in media tutti i mercati, ripeto, non hanno chiuso sui minimi le borse perché perdevano più del 3, i cali alla fine sono intorno al 2,6-2,7%, tra cui anche Milano, mentre l'S&P perde un po' di più, il 3,1%, con cali più pesanti rispetto alla media per ST Microelectronics, meno 6,7%, Bulgari meno 5,20%, Unicredit meno 5%, come Finmeccanica, il 4,80% lo perde Luxottica, il 4,2% Telecom, il 3,80% lo perde UbiBanca e Prismian, il 3,5% Alleanza, CIR, il 3,3% Intesa e l'Automatica e anche la Popolare di Milano, Mediolanum meno 3,1%, Generali meno 3%. Chiudiamo con Tenaris, Atlantia ed Eni, ma anche Fondiaria Assai, meno 2,8%, Monte dei Paschi e il Banco Popolare perdono il 2,5%, come Unipol e Mediobanca. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Facci capire, sono i dati comunicati dalla Federal Reserve ieri, sono le parole del gufo Greenspan, perché così male le borse oggi? O sono semplicemente i realizzi dopo una settimana iniziata in maniera positiva? Beh, per la maggior parte degli operatori la seduta di oggi è stata una seduta di correzione fisiologica, e anzi qualcuno l'ha definita anche salutare, per poi poter riprendere una normale... Salutare se non hai comprato ieri sera. Sì, beh, però diciamo, per recuperare quello che è un andamento, diciamo, nella norma del mercato, che dopo 4 sedute consecutive a questi livelli di recupero porta a una naturale correzione. C'è il rischio che ci abituiamo ai rialzi, dici tu giustamente. Certamente, esatto, e questo era segnalato da diversi operatori. Certamente, diciamo, l'impronta della giornata arrivata dalle indicazioni della Federal Reserve è stata negativa, e quindi già da questa mattina i mercati erano in discesa, anche se non in maniera così significativa come abbiamo visto poi nel pomeriggio, anche perché sono stati accentuati da una forte correzione del prezzo del petrolio, tornato in area a $60 al barile, ieri si era spinto oltre 62, e anche da un indicatore ancora negativo, cioè del Philadelphia Fed, che misura l'attività manifatturiera dell'area di Filadelfia, che è stato sotto le previsioni e ha un po' portato a una accelerazione delle perdite proprio nella fase finale, nell'ultima ora di negoziazione. Allora, dicevo, tutti in calo i titoli, quindi non c'è una grossa selezione oggi, ammesso che in questo periodo ve ne sia mai stata una. Anche Snam alla fine chiude in leggero calo, -0,08, ma è la migliore. Italcementi -0,2, anche se la migliore. Autogrill -0,5. Tra i titoli, quindi è inutile andare troppo a cercare spiegazioni e un senso a una borsa se un senso non ce l'ha. Però su Eni, per esempio, qualche notizia c'è, su Impregilo qualche elemento di riflessione c'è. Per cui e anche su Telecom continua a pesare Telefonica, Eni, Impregilo e Telecom. Sì, per quanto riguarda Eni, oltre al già ricordato ribasso del prezzo del petrolio, diciamo che le indicazioni da parte di Scaroni, che sono arrivate oggi a margine dell'assemblea di Confindustria, non hanno dato spazio troppo alla speculazione sul titolo. In particolare Scaroni ha sottolineato che non c'è nessuna trattativa per il gruppo del petrolifero francese Maurel & Prot, ha anche annunciato l'emissione di un bond retail da 1,5 miliardi a metà di giugno. Per quello che riguarda invece Telecom Italia, da un po' di giorni si susseguono le indiscrezioni, le ipotesi su quello che può essere il futuro più oltre che di Telecom, ma anche della compagine societaria che ne detiene un po' il pallino, cioè di Telco, con questa ipotetica possibile scissione dei soci italiani dal socio Telefonica. Nell'attesa il mercato sembra un po' diciamo così preferire alleggerire le posizioni su Telecom, perché non si capisce bene ancora con quale scenario sia il più credibile, compreso la questione dello scorporo eventuale della rete. Telefonica ha perso oggi il 4%, ha fatto invece meglio del listino Impregilo, anche se ha subito un peggioramento significativo nell'ultima fase. Inizialmente era anche sulla parità o sopra la parità, oggi questa mattina il presidente Massimo Ponzellini ha sottolineato come sia ormai vicino il rinnovo del patto di sindacato di Igli, che controlla quasi il 30% della società. Questa indicazione di stabilità è piaciuta abbastanza al mercato. Beh, questo per quello che riguarda appunto Telecom, Eni e Impregilo. Volete sapere i migliori e i peggiori? Elica, le cappe di Fabriano, più 28% a 1,22 euro per azione per il gruppo guidato da Francesco Casoli. Allora, invece, per quello che riguarda altri titoli, CDC Point più 12%, Banca Popolare dell'Etruria più 8%, il peggiore Classe Editori meno 8,20, Poligrafic C Editoriale meno 6,80, L'Espresso meno 5,5 e poco altro, Cicolella meno 5,4, ST Microelectronics abbiamo detta, Cell Therapeutics meno 9,3%. Grazie ad Andrea Fontana. Tra l'altro, una notizia che riguarda comunque i titoli oggi: Enrico Salza, che è il presidente del Consiglio di gestione di Intesa San Paolo, a margine dell'assemblea di Confindustria, ha detto di avere già provveduto a chiedere, a fare richiesta di Tremonti Bond. Questa è una notizia non nota, ma non ha specificato l'ammontare. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, in cui ci occuperemo, chiusa l'approfondimento sulla relazione della Presidente Confindustria Marcegaglia, ci occuperemo soprattutto degli sviluppi, anche se il tema oggi è più come fa la stampa tedesca ad avere così tante informazioni rispetto agli altri. Dicevo, la vicenda Opel con le tre offerte arrivate ieri. Un aggiornamento: via libera dell'Aula del Senato all'emendamento della Commissione al decreto terremoto, e questa è una buona notizia, per cui lo Stato pagherà a fondo perduto, questo dato via libera al Senato, il 100% della ricostruzione e la riparazione della prima casa. Intanto però, e questa non è una bella cosa, all'Aquila il numero di persone che ha chiesto l'indennizzo dei danni subiti dal terremoto del 6 aprile supera di un terzo quello degli iscritti all'anagrafe. Insomma, vediamo di capirci anche, può essere che non ci siano tutti quei residenti, che alcuni abitino lì e risiedono, però insomma sono 70.000 i residenti e le richieste sono 100.000. Lo ha denunciato lo stesso direttore generale del Comune dell'Aquila, Massimiliano Cordeschi, spiegando che per questo motivo che i pagamenti sono ancora fermi. Evidentemente, magari non tutti questi 30.000 in più, ma buona parte di questi stanno facendo i furbi su una tragedia, su un disastro. Ogni commento è superfluo. Partiamo con l'ultimo tema. Ce la farà Marchionne, dopo la campagna americana, a vincere anche la campagna tedesca? La stampa alemanna, la stampa tedesca, non la pensa così, anzi vede Fiat terza nella gara a tre per aggiudicarsi la Opel. Se ne è parlato molto anche oggi a margine, prima e dopo l'assemblea della Confindustria. Nel frattempo continuano, come ne ricordavo, a uscire indiscrezione dalla Germania, la Bild, che sembra avere delle fonti, poi chiariremo anche chi sono queste fonti più o meno verificate, più o meno verificabili. Dice: il piano di Torino, il piano della Fiat, è quello che prevede il maggior numero di tagli, 18.000 tagli, e il maggior numero di aiuti dallo Stato, di garanzie pubbliche, non aiuti, ma garanzie, 7 miliardi di euro, mentre gli altri due piani prevederebbero 10.000 esuberi ciascuno, chiaramente, e 5 miliardi di euro di garanzie. Come se non bastasse, poi anche altri giornali, lo Spiegel ha scritto che General Motors preferirebbe che vince, è General Motors Europe che decide, quindi è General Motors americana, non è il governo tedesco, preferirebbe che vincesse l'austro-canadese Magna, che è una fornitrice componentistica, per una possibile unione appunto con la controllata tedesca Opel, anche perché secondo lo Spiegel General Motors non ha mai digerito il fatto di essere stata costretta a versare alla Fiat $1.5 miliardi nel 2005, quando fu messa a fine alla cooperazione tra i due gruppi. Poco fa però, all'edizione online dello Spiegel ha rilasciato un'intervista lo stesso Sergio Marchionne, il quale ha detto: il piano della Fiat per la creazione di un nuovo gruppo automobilistico europeo prevede una riduzione della capacità produttiva del 20%, quindi taglio degli impianti complessivamente del 20%. Ma nessuna fabbrica della Opel in Germania verrà chiusa se la Fiat acquisterà la casa automobilistica tedesca, quindi taglio produttivo del 20% da quello che capiamo, senza chiudere gli impianti, e verranno anche garantiti tutti gli obblighi pensionistici, circa 4 miliardi di euro dalle controllate europee della General Motors. Va bene, intanto oggi varie reazioni sulla Fiat. Ascoltiamo se il ministro Scajola ha detto oggi il piano Fiat per la Opel è il più serio. Mi sembra che non possa esserci altro che una buona accoglienza. Speriamo che Scajola abbia ragione, visto che noi tifiamo chiaramente Fiat. Il ministro welfare Maurizio Sacconi in aula al Senato ha detto per la prossima settimana convocheremo le parti sociali, qui il tema è degli esuberi eventuali. Il presidente della Fiat Montezemolo ha detto di impianti ne parleremo a bocce ferme, comunque questa vicenda non conoscerà dei tempi lunghi. Non saranno tempi ancora molto molto lunghi, quello che è importante è che, come ha detto ieri Sergio Marchione, noi abbiamo presentato nei tempi stabiliti un'offerta e a questo punto c'è solo da vedere la cosa e intanto di continuare a lavorare su tanti altri temi che stiamo sviluppando in attesa di avere lavoro di tutti i giorni, in attesa di avere la risposta sul discorso Opel. Diciamo, credo che il know-how, i prodotti di Fiat siano di grande interesse e siano soprattutto fondamentali in momenti come questi, in temi di ecologia, in temi di tecnologia, in termini di risparmi energetici. Credo che sia un pacchetto estremamente interessante, però poi vediamo. Così Montezemolo, se Emma Cegaglia, dicevamo, ha ricordato noi tifiamo Fiat, è un episodio non l'unico, ce ne sono molti altri di casi in cui ci sono le imprese italiane che rispondono alla crisi e l'affrontano prendendola per le corna. Dicevo, le diverse dichiarazioni dei sindacati, le ascoltiamo dopo le informazioni per chi è in viaggio e poi ci occuperemo anche del fronte più importante, che è il fronte tedesco. Di nuovo in diretta, è una nuova notizia appena arrivata, chiaramente è una buona notizia riguardo ai dipendenti, in questo caso della Indesit, perché sarebbero vicini alla Indesit nello stabilimento di Inone nel torinese, ce ne siamo occupati perché la Indesit produce anche in Est Europa e sembrava che si dovesse chiudere lo stabilimento di Inone a favore di quelli nell'Est Europa. In realtà sembra che vi sia un accordo che prevederà nessun licenziamento, cassa integrazione, rotazione e mantenimento di 3 delle 4 linee produttive per la produzione nello stabilimento della Indesit di Lavastoviglie in Casso, per cui vi sarà un anno di cassa integrazione straordinaria più 2 per ristrutturazione abbinata a incentivi per l'esodo volontario per pensionamenti e cassa a rotazione dei 600 lavoratori. La capacità produttiva dello stabilimento sarà ridotta del 25%, ma diciamo non nessun licenziamento, nessuna chiusura. Bene, buona notizia, speriamo che appunto l'accordo si chiuda così, viste le premesse e i timori iniziali. Torniamo invece sulle reazioni dei sindacati alla vicenda Fiat Opel, molto secco Guglielmo Epifani, leader della CGIL. Non sappiamo a che punto stanno, una cosa è chiara, visto che non si è fatto l'incontro prima, l'incontro che si farà dopo sarà un incontro in cui per noi si riparte dalla difesa di tutti gli stabilimenti italiani e dall'occupazione. Su questo non ci può essere da parte nostra nessun tentennamento e nessuno si immagini che facciamo sconti su questa posizione. E timori sull'occupazione li ha manifestati anche Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, così come ha chiesto che non vi siano sacrifici per gli impianti italiani il leader della UIL Angeletti. Sentiamo nell'ordine Bonanni e poi Angeletti, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. No, questo no, però dobbiamo darci da fare per ridare una missione alle fabbriche italiane, alle fabbriche italiane, dirigerci verso produzioni verdi, E l'accordo in generale come lo vede? Buono, perché allarga i confini commerciali, allarga la rete commerciale e soprattutto ci permette di fare economia di scala, però bisogna occuparsi anche delle fabbriche italiane. Si sta facendo una trattativa, quindi come tutte le trattative ci sono delle offerte, ci sono delle controdeduzioni. Fino a quando la trattativa non verrà conclusa non sapremo dare un giudizio, bisogna prima attendere che questa trattativa sia conclusa. L'unica preoccupazione che io ho è che ci siano dei condizionamenti politici, soprattutto ovviamente dalla parte del governo tedesco, che potrebbe essere comprensibile per i tedeschi, ovviamente un po' meno per noi, mentre non temiamo nessuna conseguenza negativa da parte di un grande accordo se questo verrà realizzato e il piano verrà costruito su basi puramente industriali. E se anche il leader, l'esponente del PD Pierluigi Bersani, non leader, responsabile economico, ci mancherebbe, non ce ne voglia Franceschini, Bersani ha detto la proposta Fiat è quella con la mia più marcata ipotesi industriale, vorrei capire come mai dalla Germania escono tutte queste informazioni con ipotesi le più svariate di 18.000 esuberi, no, di meno. Insomma, Beda Romano, è il tuo momento, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Alle fonti tedesche, perché tu stesso, insomma, hai ammesso che quando le domande li fanno i giornalisti italiani le bocche sono più cucite in Germania, in questa vicenda, e si può anche capire perché. Ma insomma, le fonti di questi giornali chi sono? Perché, sindacati e politici, perché se fosse così avremmo da un lato il sindacato che parte in causa, dall'altro i politici che sono sotto elezioni, quindi hanno anche loro i loro interessi, diciamo così, non industriali in senso stretto. Questa è una partita italo-tedesca per alcuni aspetti, però è anche una 4-3. partita americano-europea e aggiungerei poi che è una partita tedesco-tedesca. Allora, è certamente italo-tedesca perché è una partita dove la Fiat ha l'ambizione e il desiderio di acquistare Opel, che è una grande casa automobilistica tedesca. Però è evidente che ci sono degli interessi che vanno oltre questi due paesi. Magna, che è il principale concorrente di Fiat, è una società austro-canadese. Opel appartiene a una casa madre americana e dietro a Magna ci sono degli azionisti russi. Quindi le possibili indiscrezioni sono numerose, le fonti sono tantissime e non sono potenzialmente solo tedesche e italiane, possono essere benissimo anche russe o americane, e questo spiega perché non passa giorno senza che ci sia una fuga di notizie, un articolo in cui si cita un rapporto, un progetto, cifre da cui non si capisce esattamente la provenienza. E certamente il quadro internazionale non aiuta. Aggiungo poi che questa è una partita anche tedesco-tedesca, è una partita tedesco-tedesca perché per due motivi fondamentalmente. Prima di tutto perché la Opel è una società molto particolare, è una filiale europea di una casa madre americana, e in questo frangente i sindacati in Germania hanno un ruolo e un peso particolare inevitabilmente, perché la dirigenza di Opel in Germania, il management, è completamente superato dagli eventi e viene regolarmente scavalcato dalla casa madre. E in questo frangente i sindacati tedeschi possono giocare un ruolo che in altre circostanze sarebbe per loro molto più difficile giocare. E il secondo motivo sono le elezioni in settembre. Certo. Si vota in settembre, e quindi questa è una partita dove i due grandi partiti popolari hanno anche loro motivi, sì, per dare indiscrezioni alla stampa. Ultima domanda, Beda Romano. Sta emergendo, da quello che abbiamo letto, dalle indiscrezioni, da quello che pubblicano i siti tedeschi, un po' l'idea che Fiat abbia la proposta industrialmente più seria, ma dal punto di vista della liquidità senza una lira, cioè Marchion, quello che senza metterci una lira, non che non abbiamo lira da Fiat, ma senza mettere contanti, come ha fatto con Chrysler, cioè il modello Chrysler, offriamo componentistica, tecnologia, alleanza, motori, quello che volete, ma non mettiamo un dollaro. Mentre le altre due offerte sembrano più ricche di liquidità, sicuramente meno come piano industriale. A te risulta che General Motors, vuoi anche per le attività sudamericane, possa vedere con più favore le offerte di cassa che non quelle di prodotto? General Motors è in grave difficoltà finanziaria, quindi ho l'impressione che inevitabilmente dal suo punto di vista cercherà l'offerta che le permetterà di arricchirsi in un certo senso, e quindi guarderà le offerte da un punto di vista puramente finanziario e potrebbe a un certo punto decidere che è meglio ricevere qualche lira in più che qualche lira in meno in questa circostanza. Poi peraltro c'è anche un altro aspetto, la Fiat è un concorrente di General Motors, oltre che un potenziale acquirente della Opel, è un concorrente perché avendo acquistato Chrysler è diventata per General Motors anche un concorrente. Quindi la partita si fa complicata inevitabilmente, perché General Motors, decidendo di vendere la Opel alla Fiat, sta per certi versi rafforzando il proprio concorrente, il proprio diretto concorrente negli Stati Uniti. Quindi anche questo elemento qui è un elemento che probabilmente verrà tenuto in conto quando le varie offerte verranno prese in considerazione nei prossimi giorni. Comunque noi, l'ho sempre detto, tifiamo Fiat in quanto italiani, e quindi forza Fiat. Poi vedremo entro primo di giugno, insomma, General Motors a Barack Obama deve dire che piano ha se vuole ottenere altri finanziamenti americani, quindi immaginiamo che quella sia la data di scadenza ultima, la deadline, come dicono quelli che sanno l'inglese. Grazie a Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto un augurio di buona serata. Focus Economia.